Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci, eccoci qua, molto educatamente. Io vado a salutare Riccardo Platone che appunto ci ha preceduto e continuiamo sulla sua falsa riga. Andiamo a scartabellare le uscite discografiche più così interessanti nella musica, nel calderone della musica indipendente. Ovviamente la puntata di oggi, domenica appunto, la puntata numero, se non sbaglio, 11 di domenica 16 marzo 2025. Diamo un'occhiata, insomma, alle cose più sfiziose che abbiamo trovato appunto nel mondo musicale e che ovviamente i network magari non suonano. Li suoniamo noi, non c'è problema, e andiamo così a scoprire anche nuove novità e cosa dire, anche nuovi suoni. Direi immediatamente di salutare anche il Bolognese Volante al di là del vetro che vedo impegnato. Buongiorno a lei. Buon pomeriggio. La vedo un po' così, non dico assopito, però insomma sarà assopito lei. Assopito, no? Assorto, volevo dire assorto, non assopito. Assolutamente. Ma come sono colto, vero? Come colto, anche un po' desueto. Grazie del desueto, ma in realtà è vero, è così, anche se non sembra. E allora vediamo di andare comunque sempre meno di lei, sa, non se la tiri. Ecco, e quindi dicevamo, vediamo di aprire oggi le danze con un ritorno alla musica italiana di un gruppo che ha fatto sicuramente per una generazione scuola. Sono genovesi, sono attivi dal 1998 se non sbaglio, si sono distinti nel mondo underground così alternativo per aver vinto l'Emingenin Festival, MTV Day e poi insomma per dei loro dischi d'oro in versione alternativa. Stiamo parlando dei Meganoidi, che sono ritornati oggi con un singolo che si intitola I Set di Hollywood, e poi vi parlo ancora di loro, quindi ascoltiamo i Meganoidi. La felicità non dipende da un vento leggero e nemmeno da quello che spero, ma dalla verità affronta con lealtà di chi genera e spera. Lo so, è una chimera. Il tempo smette di passare, se scandisci tu i secondi ti riprenderai realtà palleggiando con le onde. Non c'è un modo per fermare un sorriso di incertezza dalla realtà virtuale. I set di Hollywood, ignoranti ignorano mentre gli schemi scemano. La vita pare una suonatura precisa, cosa giusta che puoi fare, proprio un errore, quando tutto sembra normale, comincia a pensare. Il tempo smette di passare, se scandisci tu i secondi, ti riprenderai realtà, palleggiando con le onde. Non c'è un modo per fermare un sorriso di incertezza dalla realtà virtuale, ai set di Hollywood. Vivere bene è semplice, basta non complicare. Quando la gioia è complice, portala a ballare. Il tempo smette di passare. Meganoidi, i set di Hollywood. Esattamente. Un brano dal titolo un po' così particolare, adesso poi ci spiega. Ma non ho idea di recondito, esplicito. Sì, non ho idea del perché, idea, del motivo appunto di questo il set di Hollywood. Ma loro hanno dichiarato: abbiamo sempre pubblicato album da cui venivano estratti i singoli, questa volta abbiamo deciso di sperimentare il processo inverso, ossia rilasciare prima i singoli per poi comporre un album, e nel frattempo sono già on the road per appunto questo nuovo album che sarà appunto preceduto da alcuni singoli. Dopo 3 anni di tour ininterrotto abbiamo appunto deciso di licenziare prima i singoli per poi arrivare a un nuovo tour ancora più entusiasmante, e direi che insomma anche perché hanno ragione, perché loro sono indipendenti, quindi il guadagno è soprattutto nei live più che nella quantità dei dischi ovviamente, però insomma hanno già conquistato nel corso di 20 anni di carriera il loro zoccolo duro, i suoi fans, e quindi insomma però loro si esprimono molto meglio dal vivo e sono molto divertenti. Andare a vedere un loro concerto è veramente un'esperienza, un coinvolgimento veramente incredibile. Io non posso far altro che appunto invitarvi a uno dei loro concerti, perché è veramente straordinario, perché siete proprio così avvolti dalla musica, dallo spettacolo e poi insomma dalle persone che vi sono accanto. È veramente un'esperienza incredibile. A questo punto invece diamo la parola ancora invece alla musica. Torna a trovarci Ascanio, questo cantautore che avete sicuramente visto in qualche X Factor, insomma in qualche show insomma televisivo, non solo. Ci presenta il suo nuovo singolo Milano Brindisi e poi parliamo ancora di questo singolo. Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti. Tu senza di me non c'è una Robin senza Ted. Fuori è Winter, io è sotto contro l'Inter. Cade vodka dentro al Peter, tra di noi solo scintille, non lo sai. Sono in volo quindi offline, Milano Brindisi tonight. Spero che non cambierai, che non cambierai mai. Tu sei la via d'uscita dai guai. Sotto il cielo di sta città grido come un capo ultra. Non sai che noia se no. Notti senza di te, mai, mai, mai. Tu sei la via d'uscita dai guai, guai. Sotto il cielo di sta città grido come un capoltra. Non sai che noia se notti, se notti senza di te. Alta 1,60, fuma Icos mentre parla. Assistema il trucco 100 volte dalla notte all'alba. Lei la cocca di pappa, non un ballo all'università. Dice che un giorno studierà, ma so che non lo farà mai. Sbuffa tua di cosa, come sport fa la preziosa. Dice di essere gelosa, ma di cosa non lo sa. Ogni bugia è una verità, quindi alla fine si vedrà. Spero che non cambierà, che non cambierai mai. Tu sei la via d'uscita dai guai. Sotto il cielo di sta città grido come un capoltra. Non sai che noia se notti, se notti senza di te. Mai, mai, mai. Tu sei la via d'uscita dai guai, guai. Sotto il cielo di sta città grido come un capoltra. Non sai che noia se notti, se notti senza di te. Sei la via d'uscita dai guai. Sotto il cielo di sta città grido come un capoltra. Non sai che noia ste notti, ste notti senza aurora. Andrea Ascanio, in arte Ascanio, un cantautore indie pop nato nel 2003 se non sbaglio a Copertino in provincia di Lecce. Fin da piccolo ha mostrato una grande passione ovviamente per il calcio e anche per la musica, e dopo aver lasciato ovviamente il calcio è passato alla musica con grandi traguardi. Pensate un po', all'età di 7 anni, dopo pochi mesi di studio era già al programma televisivo Ti lascio una canzone, condotto ovviamente dalla Clerici, e poi via via si è fatto conoscere. Ovunque, vero? Nel 2012-13 ho partecipato ai programmi televisivi, tra cui Stasera sono qui con Teresa Mannino, la nota comica. E poi, insomma, diverse esperienze anche dall'altra, dalla concorrenza, come si chiama, la Maria De Filippi. Ah, guardi, non so niente. Dove ha presentato il suo singolo Margotto, quello di maggior successo per quanto lo riguarda, e poi, insomma, ha fatto dei grandi numeri d'ascolto su Spotify, e da lì, insomma, tutto un programma. C'è da dire che Ascanio era stato selezionato a cantare all'interno di un trio, un po' come il Volo, per dire, però si è subito, come dire, poi si è defilato da questo trio che dire, che ha intrapreso questa sua così carriera discografica, e come sempre io dico, se son rosa e fioriranno. Bene, a questo punto voltiamo pagina, abbiamo ancora tanta tanta buona musica. Arriva una ragazza, si chiama Denise Orlandi, e ci presenta questa Déjà Vu. Corri a prendermi, parla, chiediti, troppe maschere che indossi lascerò, se tu a crederci come fosse un film, sul finale leggo amore tossico. Perché sentirsi in bilico, odiarsi anche oltre oceano, mentre i miei giorni crescono. Fuoco e drink, giuro tanto questo è l'ultimissimo. Vorresti illudermi, non sai conviverci, lascia stare adesso, avanti il prossimo, mostrando un viso angelico, remare sull'Atlantico, dal Salvador al Washington. Sembra un déjà vu. Ritornare per strada, nel cortile di casa, tutto uguale ma tutto qua fuori a me sembra un déjà vu. Sta cosa saremo una TV, distrutta lo schermo e resta lì. Beh, chi è che non ha avuto in vita sua almeno un déjà vu, Paoletti, come ci propone Denise Orlandi? Assolutamente sì, io tantissimi, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti e parliamo appunto di Denise Orlandi, che arriva da Fermo, provincia delle Marche, ragazza intraprendente, amante ovviamente sempre di grandi avventure, è ritornata dagli Stati Uniti dopo un'esperienza appunto durata 2 anni in cui ha vissuto e ha studiato, appunto in quella di dell'Italia, di Milano, dove vive, e qui praticamente ha fatto breccia in una etichetta discografica importante per arrivare, insomma, a questo singolo che, insomma, la lancia in maniera definitiva. Déjà Vu, appunto, Denise Orlandi, in arte solo Denise, credo, e ci ha presentato questo singolo che mi sembra scoppiettante, molto interessante, molto easy pop, e molto easy pop, molto in questa domenica quasi primaverile. Paoletti, ci siamo, sì, quasi, ci siamo quasi. Non ho mai visto un autunno così lungo, un inverno così lungo come quest'anno io. Vabbè, opinioni, eccetera. Beh, sì, effettivamente la pioggia così tanta, insomma. Ottobre che piove, ecco. Brutto tempo, nebbia, nuvolo, poco sole. Va bene, prendiamo quello che arriva, anche se non è bello, tante volte. Benissimo, dopo questa sua massima possiamo anche andare con la prossima selezione musicale. Adesso qui la voglio chi? La voglio. Io direi Beloved, Beloved, Beloved, Beloved, Beloved, Beloved, Clatrus Archeri. Giusto? Non so se è inglese o meno. No, noi ce la comunque questa è Beloved. Frequenze dei 103.10 in modulazione di frequenza, siete all'ascolto di Easy Pop su Radio Città Fujiko dalle ore 15 alle ore 16. Vi parla il bolognese volante dall'altra parte. E al di là, ovviamente, Franco Paoletti. E se avete sintonizzato, se siete sintonizzati solo ora, vi siete appunto sintonizzati adesso, non è che abbiate fatto un salto appunto indietro di qualche decennio, perché la musica ricorda un po' il punk, la new wave, il post post-punk, new wave, oppure insomma quelle tendenze dark, subito post Joy Division of a Cure. Qui potremmo anche pontificare su come stiamo facendo passi indietro a livello socio-culturale, politico, ma è un altro film. Quello è un altro parallelo, come però, dire. Quello è però, un'altra dimensione, diciamo sì, così. E allora, parlo dei Clatrus Archeri, ovvero sia un gruppo, un duo che nasce tra il 2022 e il 23 tra Roma e Latina. Praticamente il nome richiama il fungo Clatrus Archeri, che appunto diffonde le proprie spore ovunque, sono tenaci, insomma, come dire, come l'edera, no? È rampicante, poi è infestante, questo volevo dire. E vabbè, i due musicisti esprimono il loro mondo interiore molto dark, molto scuro e forse molto negativo, non lo so, però ci piaceva questa idea del così del guardare dietro cosa è successo negli anni 80 con i dark, negli ultimi anni con gli emo e adesso insomma con questo gruppo Clatrus Archeri, molto molto interessante, con Below. Ok? Bravo Paoletti. Grazie, grazie. Come sempre preparatissimo, vero? Upperback, non si scherza mica qua. No. Pissi pissi bau bau. No, abbiamo una redazione fantastica. Io voglio fare i complimenti alla mia redazione che veramente studia sempre sul pezzo, poi insomma mi prepara sempre delle cose. Delle piccole chicche. Grazie veramente. A questo punto voltiamo pagina e abbiamo la prossima ad appannaggio di Santeria. E questa è Niente di Vero. Hai fatto centro nel mio cuore di latta, poi me l'hai scassato come fosse una macchina. Non hai versato neanche mezza lacrima quando ti ho detto che era finita in pratica. Ma come ho fatto a farti entrare così? Mi hai lasciato solo all'angolo, sembra più una gabbia o ring. dove due persone danno spettacolo. E se è vero che ho perso stasera, mi sento giù come non mai. Ma in fondo se il fondo lo prendi per darti una spinta, sicuro che andrò fuori di me, fuori di casa, fuori per te, fuori per strada, fiori per la mia ansia, il cuore che si separa dalla testa se ci sei te. Dentro al ballo di emozioni vince la rabbia, tu vestita bene, io vestito a caso, tanto se è vita uguale ce ne andiamo, persi in un futuro che non conosciamo, ma questa sera non ti stringo la mano, baby. Ti chiamo e rispondi sempre allo stesso modo, sembri un po' fuori luogo ma va bene, l'importante è litigare insieme. Ti sembra normale, sembra tutto normale per te, che a posto di un film preferissi farlo con me. Uno splatter senza senso di pena, dove il protagonista muore nella prima scena. Ora che non ti vedo e un'altra notte è passata, non ci trovo niente di più vero, di vero in te. Sono fuori di me, fuori di casa, fuori per te, fuori per strada, fiori per la mia ansia, il cuore che si separa dalla testa se ci sei te. Dentro al ballo di emozioni vince la rabbia, tu vestita bene, io vestito a caso, tanto se è vinta uguale ce ne andiamo, persi in un futuro che non conosciamo, ma questa sera non ti stringo la mano, baby. Non ti stringerò stasera, ho troppe cose a cui pensare, ora non provo più pena. Sei una ragazza, sì, una donna diventata iena. Vorresti togliermi il sorriso, fanculo alla tua scena. E se sparisci come fossi una bollicina di champagne, oh madame, verso gocce di veleno nel tuo bicchiere, arriva l'odio in giacca da cameriere. Sono fuori di me, fuori di casa, fuori per te, fuori per strada, fiori per la mia ansia, il cuore che si separa dalla testa se ci sei te. Dentro al ballo di emozioni vince la rabbia, tu vestita bene, io vestito a caso, tanto se è vinta uguale ce ne andiamo, persi in un futuro che non conosciamo, ma questa sera non ti stringo la mano, baby. Mi ero perso a sentire questo brano trascinante, assolutamente Poletti, molto trascinante, assolutamente sì. Lui è Lorenzo Baccarini, nato in Santeria, un pop rapper classe 1998, originario di Lanuvio nei Castelli Romani, per essere così insomma precisi. Allora inizia a scrivere all'età di 12 anni e poi insomma via il suo percorso musicale solamente nel gennaio 2024, dopo che appunto comincia a vincere dei vari piccoli talent. A giugno 2024 vince per esempio il premio per il miglior testo inedito e trionfa come vincitore assoluto nel contest Jeso Paz Music Fest, dedicato ovviamente a Pino Daniele, guadagnando così il primo premio e una borsa di studio in un noto studio appunto musicale. E poi settembre 2024 arriva alle fasi finali del contest Sanremo Rock Trend, esibendosi appunto sul prestigioso palco Ariston. Dobbiamo un po' correre perché siamo un po' in ritardo, perché voi sapete che il Festival di Sanremo non è solo Festival di Sanremo. E poi l'abbiamo vista alla finale nazionale di Tour Music Fest a San Marino. Che dire, che è uscito questo EP che si chiama Indipendenza e contiene anche questo singolo. Bene, siamo già arrivati, Paoletti, al brano numero 6 di questa prima parte, di questa puntata numero 11, e abbiamo Gabriele che ci propone Stanza 9. Dopo Paoletti ci spiega cosa c'è in questa stanza. Restare lontano per ore e per ore, rinchiuso nella stanza 9. Tu mi parli, io non ti sento già da un po'. Voglio stare nella safe, con problemi che cadono, io resto in bilico, mi chiudo nella nine per provare a restare tranquillo. Prendo coach in più qualche sonnifero, chissà come si sta in paradiso. Se proviamo ancora quel brivido, se proviamo ancora il dolore. Non lo sai quante volte sono state mie bad vibes a rovinare le cose. Non lo sai che io dentro non mi pento, chissà che stai pensando. Ora non dirmi ho fatto tardi, anche stavolta le luci della metro e io in un posto strano mi ricordavo di te. Ora che sono qui da un'ora, affisso nel soffitto, rinchiuso nella stanza 9, passano le ore, passano passano le gioie, passa il malumore. Abbiamo di rotto, pensi sia giusto restare distratto, ma la mia testa non trova mai pace, nella mia testa non sono capace. Hai chiesto scusa mille volte, ma senza pensare che non serve a nulla sputarsi in faccia tutto il male, fino a vomitare l'arma più letale. E non lo sai quante volte sono state mie bad vibes a rovinare le cose. Non lo sai che io dentro sto morendo, chissà che stai pensando. Ho fatto tardi anche stavolta, le luci della metro e io in un posto strano, mi ricordavo di te, mi ricordavo di te. Ora che sono qui. Molto easy pop anche questo brano di Gabriele, la sua stanza 9 di cui Parletti adesso ci parlerà. Sì, Gabriele è nato meno di 20 anni fa, perché classe, se non sbaglio, 2025, sì, ci siamo, non è ancora fatto il suo compleanno, quindi giovanissimo ha iniziato a scrivere non per se stesso ma anche per altri. Da 3 anni però Gabriele studia canto affinando la sua tecnica e diciamo che è stato scritturato per appunto scrivere testi da diverse etichette, tra cui la Warner, però è passato alla Sony passando anche per la Sugar, quindi insomma è un talento, perché se lo stanno contendendo un po' tutti. È uscito Apnea, il suo suo EP è uscito da poco per la Sony Apnea, e a questo punto insomma questo è il suo secondo estratto da stanza, da appunto questo Apnea stanza 9, il secondo singolo. Volevo dire questo, se lei mi manda in tilt regia, però non riesco, mi incarto. Ma cosa, si vuole incartare? Ecco. Adesso abbiamo il settimo ed ultimo brano che ce lo propone Paoletti. Allora T-Pam ci presenta questo Lost in Paradise. Let the music take control. Lose yourself and free your souls. We are lost in your paradise. One breeze, your lips on mine. No place I'd rather be. Just you right next to me. One man is lost, let's fade away. I'm fooling us night and day. No more fears, just you. Bellissimo questo brano, che potrebbe molto essere bello, un brano estivo, è vero, sì. Un pre estate, diciamo, sì, sì, un pre primavera è così, esatto, ma non lo so, è un progetto portato avanti dai fratelli Andrea e Paolo Amati, dedicato così un po' alla tropical house, un no? po' questa come cosa. La Clerici sono ovunque, esatto, ma fanno anche delle cose molto molto interessanti per la P-Beat, la loro etichetta discografica molto molto importante, e molto accattivante, molto agguerrita, e si presenta sempre delle cose fresche, interessanti, curiose, che si un staccano schermo, no, dal... c'è una bellissima cimice che cammina poi. Benissimo, lascio lei la cimice, mentre direi di passare anche alla pubblicità, sì, direi di passare alla pubblicità, il tempo di far fuori questa fuori cimice. Cimice, esatto. Re-listening to Radio City Fujiko Easy Pop. cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. Parcheggio gratuito. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Il maestro Miyazaki, come non l'avete mai visto e sentito prima. Vi aspettiamo venerdì 14 marzo dalle 17.45 con le immagini e la musica del maestro Miyazaki, presentate dal critico cinematografico Piero Di Domenico. Un evento unico, da godere con un impianto Hi-Fi e immagini su schermo cinematografico da audio quality, in via Vittoria 5, a San Lazzaro di Savena. Prenotati via mail a cinzia.monari@gmail.com o chiamando il 333-626-9454. Ingresso gratuito. Venerdì 21 marzo al Teatro Spazio Binario, in scena lo spettacolo Raccontami di domani di César Brie con Vera Della Pasqua e Rossella Guidotti. Lo spettacolo è un viaggio attraverso l'universo femminile, spiato dalla serratura del bagno. Il tema è l'amicizia tra due donne. Nel bagno conversano, si sistemano, si preparano, scoprono i cambi dei loro corpi, si confessano, si lavano il corpo e l'anima. Il Teatro Spazio Binario è a Zola Predosa, in Piazza della Repubblica 1. Per info, spaziobinario.it. Torna il Festival Internazionale dell'Ocarina dal 10 al 13 aprile con una prima nazionale insieme a Elio in Le sottilissime astuzie di Bertoldo, il 10 al Teatro Consorziale di Budrio e l'11 al Teatro Laura Betti di Casalecchio. Scopri lo straordinario mondo dell'Ocarina con concerti, mercatini, laboratori, artisti nazionali e internazionali e celebra con noi un'antica tradizione musicale amata in tutto il mondo. Programma dettagliato su ocarinafestival.org. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. In onda. Siamo già in onda, eccoci qua per la seconda parte di Easy Pop. Ha avuto musica. Un mancamento anche il nastrone sulla scia della cimice. Esattamente, è svenuto anche il macchinone qua. Pensavo avesse tirato un libro e quindi... No. Niente da fare. È bloccato un attimo da solo. Va bene, allora, ma ci sono quelle cimici, quegli insetti che vanno, no, dentro ai computer e quant'altro, e quindi impallano un po' tutto. Va bene, allora, bando alle ciance, domenica. Tantissima roba, Paolo. Sì, domenica 16 marzo 2025, eccoci qua in quella che è l'11esima puntata di Easy Pop insieme a Franco Paoletti e il Bolognese Volante. Cominciamo. Voglio ricordare 333-180-94-94 per ovviamente i vostri messaggi. E poi anche vogliamo salutare tutto il nostro gruppo d'ascolto, sono tantissimi veramente. Tutti voi indistintamente che siete il all'ascolto. Plurale maschile estensivo, com'è che lo chiamiamo? Ah, guardi, lasciamo perdere. Andiamo il avanti. Tutto per uno per il tutto, come era, sì, ma sì. Lasciamo perdere. Partiamo col primo brano. E allora iniziamo con Gustavo che ci presenta questa demo de. Pa-ba-ba-ba. Farsi staccare la luce per non pagare bollette, andare a prostitute coi soldi vinti a 3-7, non andare al lavoro perché non mi va, fare un viaggio da solo, con l'oro rubato a papà. E demo de, ma tutte ste cazzate io le ho fatte per te. Poesie e lettere, tutte ste cazzate io le ho scritte per te. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. giornate solo dentro al letto, pagare 50 banane per parlare con un esperto e non mi chiamate che vi metto giù. Gustavo se n'è andato, Gustavo non c'è più. Tutte ste cazzate io l'ho fatte per te, poesie e lettere, tutte ste cazzate io l'ho scritte per te. Simpatico anche questo brano di Gustavo e la sua Paoletti. E la sua Demodè, spero abbiate colto l'ironia un po' alla Iannacci, un po' alla Vittorio Cane, mi ricordavo un po' anche Vittorio Cane, vero? È uno dei suoi favoriti. Ma in effetti ha qualcosa. Vincenzo quando lo intervistò mi ricordo un po' meno. C'è da dire che lui, Gustavo, è un cantautore nato in Venezuela nel 94, è cresciuto però a Teramo e si avvicina alla musica tra band mai decollate e lezioni di canto andate un po' male e una bocciatura conservatorio, però si è laureato appunto se non sbaglio sì, in giurisprudenza e poi insomma si è ridato alla musica e complimenti perché questa è una canzone simpatica e poi tra l'altro ha già un album al suo attivo uscito nel 2023 e questa che si intitolava Stronzo è rivolta a se stesso ovviamente perché era un disco autobiografico che l'ha fatto poi girare un po' nei club italiani in versione acustica e poi addirittura Bucarest. Bah. Bucarest non si nega a nessuno. Corriamo perché abbiamo tanta roba veramente. Adesso abbiamo i Varians che ci propongono Bane. Crumble to your grand denial of my desire of rising higher. I do. Do you know what lies within? It's growing to an evil, breathing mind deceiving, being not so easy to believe. It's feeding me, dealing injuries. Oh, I just wanna feel what's left within. Oh, I don't wanna leave the seen a ghost. Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? I wanna know where we started breathing into. Just wanna know where we started breathing into. Breathing into pain. Apologetic ride. Can you feel it? Just wanna know where we started breathing into. Breathing into pain. Cause I appears right through where I know. Well, you're gonna make it right. Oh, I just wanna feel what's left within. Oh, I don't wanna leave the lying man. Cause I just wanna break those chains and flee. Cause I wanna freeze what's waiting. Beh, Varians è un progetto musicale nato dal bisogno di espressione senza filtri, infatti una band, una rock band nata nel 2021, i componenti sono solo tre ma sono belli tosti, fanno questo alternative rock elettronico sperimentale molto molto bene, sono ritornati a distanza di 2 anni dal precedente album e questo è il loro singolo appunto che si chiama Bane. A questo punto velocemente andiamo con la prossima selezione musicale ed è una ragazza, ci presenta questa Dittatore, Awa. Il mio cuore è un dittatore. Il mio cuore è un dittatore. Quello che offro è già ascoltato. cosa potrei fare da qua sotto. Ti faccia piacere sapere che tengo più all'uomo che al suo rispetto. Nonostante il dispiacere, tento di soprassedere. Dittatore. Dittatore, sì, sì, sì, è proprio così. Awa è una cantautrice che debutta giovanissima al Festival di Sanremo nel 2001 insieme al gruppo dei Pinca Pallina, dimostrando appunto di avere simpatico nome, Pinca Pallina. Pinca Pallina. Pensi un po'. Che con un pizzico di incoscienza andò al Festival di Sanremo, che andò come andò, ma dopo poco ha partecipato poi a Icon, il tributo dedicato a Nico, e poi lo portò in giro nei vari teatri. E quindi quando si dice Sanremo va male perché arrivo ultimo, in realtà poi ci si mette in mostra, si sfoggia il proprio curriculum e qualcosa succede, qualcosa, insomma, qualcosa succede sempre. Nel 2022 ha praticamente scritto delle canzoni, esce il suo EP Belli Come Te e poi anche diverse altre esperienze musicali e a questo punto questo nuovo singolo che noi abbiamo ben accolto, Dittatore. Bene, passiamo al brano numero 4 di questa seconda parte, proposto dai Freccia con Felicità Bastarda. Non ci credo che sto bene, che mi piace starci assieme, che la bacio e poi non scappo, che la bacio e perdo il fiato. Sì, mi piace e non lo ammetto, ma ho paura di me stesso, che domani poi mi sveglio e c'ho l'ansia dentro il petto. Non mi lascio veramente, non lo faccio ormai da sempre, ma con lei non ce la faccio, è più forte il mio imbarazzo. Ma perché? Perché? Perché? Quando si sta bene c'è sempre un perché. Sarà che ancora non è tempo, sarà che ancora non mi ha scelto questa felicità bastarda, sì, bastarda, sì. Bastarda, sì, bastarda, sarà che ancora non è tempo, sarà che ancora non mi ha scelto questa felicità bastarda, sì, bastarda, sì. Bastarda, sì, bastarda, sì. Ho da tempo chiuso il cuore e la chiave persa altrove. Non ho fatto mai doppioni, ma si sparsi di emozioni. Ci han provato a fare centro, sì, ci ho provato anch'io, ma niente, che se sforzi ti fai male. Non ha senso senza chiave, ma perché, perché, perché? Quando si sta bene c'è sempre un perché. Sarà che ancora non è tempo, sarà che ancora non mi ha scelto questa felicità bastarda, sì, bastarda, sì. Bastarda, sì, bastarda, sarà che ancora non è Freccia tempo. Freccia e la sua felicità bastarda, la felicità è sempre un po' così. Noi salutiamo Riccardo da Palermo che ci scrive con un SMS. Il top della musica è sempre su Radio Città Fugico. Complimenti ragazzi, saluti Riccardo Palermo. Beh, grazie Riccardo, non grazie. Siamo ragazzi purtroppo. Grazie, comunque onorati. Il top della musica, vabbè, si fa quel che si può. La musica italiana in questo momento forse non è il top, ma vabbè. Beh, comunque un bel complimento. Trascorre un'oretta in spensione. serata allegria. La nostra redazione e noi medesimi ovviamente ringraziamo, grazie, un saluto alla Sicilia, anzi non c'è scritto magari che tempo che fa, perché siamo curiosi, magari va bene, non abbiamo tempo. Nicola Buetti, in arte Freccia, un cantautore nato nel 1998, non è giovanissimo, pensate un po', lo cacciò la tiranna dittatore, posso, no non dico, no, comunque no, la famosa, per carità di Dio, la famosa, ecco, non dica niente. Ecco, non dico niente, è questa del talent, insomma, no, non diciamo niente, non dico altro, però insomma la strada se l'è fatta, diciamo, e poi diverse esperienze, arriva, nasce insomma, nome e cognome, ha inciso qualcosa, dopodiché cosa è successo? Rinasce nel 2019 con Freccia, questo è il nome d'arte, simbolo di un nuovo percorso e di una direzione più precisa per la sua musica, e devo dire che ha fatto centro, perché insomma ha trovato un'etichetta in cui si trova bene, in cui insomma riesce a scrivere bene, che dire, complimenti, bravo Freccia, e mai demordere, ecco. Ecco, i consigli sì, però a volte anche di no. Ecco, esatto. Questo è il sunto. Andiamo al brano numero 5, Paoletti. Arriva e ritorna Daniele De Gregori con Quadricipiti. Arriva. Ma io che me ne faccio di tutti i libri del mondo? Se crampi ogni notte mi tengono sveglio, se a casa di giorno non ci riesco a tornare. Servono fiato e polmoni anche per fumare. Servono muscoli buoni per resistere. Si servono muscoli buoni. Quadricipiti più grossi per il peso dei quattro ricordi che mi lasci. E tendini più forti per scendere dal letto se mi manchi. Ma io che me ne faccio di tutti i fiori del mondo, da quando nessuno ci balla intorno, da quando mi hai detto vedrai che andrà meglio. Ti cambia la vita l'allenamento, ma servono muscoli buoni per restare in piedi. Ci servono muscoli buoni. Quadricipiti più grossi per il peso dei quattro ricordi che mi lasci. E tendini più forti per scendere dal letto se mi manchi. Ma che simpatico brano questo di Daniele Gregori. Assolutamente. Cantautoriale old style, vecchio stile. Ma infatti è così, cantautore, chitarrista romano, già conosciuto dai più, pluripremiato nei maggiori festival, tra cui insomma il premio Bertoli, tanto per dire l'ultimo, oppure Musica contro le mafie, o Lunezia stesso. Il nostro Daniele, appunto De Gregori, lo conosciamo perché insomma nel passato ha già avuto grandi esperienze e si è messo in luce sicuramente, questa è la sua musica. Ha vinto anche lo scorso anno il videoclip fatto, ideato da lui stesso, Le case mangiate dal sale, ha vinto, dicevo, il premio Roma Videoclip Indipendenti. Nel 2024 è testimonial nazionale per la campagna alla guida sicura di Autostrade per l'Italia, e questo invece è il suo nuovo singolo che insomma coronerà l'album, che sarà il suo terzo album di inediti previsto per aprile 2025. Attendiamo buone e nuove prove e buone e nuove da appunto Daniele De Gregori. E tanti auguri anche a Daniele Gregori. Adesso invece chi abbiamo sul piatto numero uno? Questo è il piatto numero uno. Arriva Emily Rinaldi con Ti sta bene. Ah, sentiamo. Sei caduto di schiena su di me come prima, come un filo di seta, dai rimani qui prima di volare da me. Che farai questa sera? Spero proprio di prenderti ancora. ti serve una prova. Ok, va bene tutto, ma tienimi stretta, mi devi ancora un paio. Io sarei nell'attesa di tenere un po' su da dividere per due. E lo so che non sarà una storia come l'altra, sono sicura. E rivedo in te la stessa voglia di andare a fregarci la luna. Ma tu poni il problema, che ti sei. Ok, va bene tutto, ma tienimi stretta, mi devi ancora un paio di cose nuove. Se mi riverso il cuore ci perdo la testa e ti sa bene. Ah, molto easy pop anche questo brano di Emily Rinaldi, Ti sta bene, che dedico a Giorgia di Reggio Emilia che ci sta ascoltando. Un saluto anche a lei. Provincia di Reggio, saluti a tutta Reggio. Assolutamente sì, anche perché il nostro suono si sta ampliando grazie insomma alla nuova tecnologia, i DAB, satelliti, digital, il DAB, audio, e quant'altro. Esatto, e quindi ci espandiamo e quindi Si espanda troppo, Paoletti. No, però col web e quant'altro riusciamo veramente a collegarci in tutta Italia. È bello sentire il vostro affetto, anzi 333 180 94 94. Siamo qui per i vostri short message, suggerimenti e quant'altro, e siamo proprio in diretta. Allora, da cantante e attrice, Emily si distingue per la naturalezza delle sue esibizioni. Lei è forte di un brano che si intitolava Get Down, che ha superato i 600.000 streaming su Spotify per questa canzone, però. Tant'è vero che fu chiamata al Festival di Sanremo come ospite nel 2022. Da allora c'era Amadeus, giusto. Corriamo adesso velocemente. Il brano numero 7, un cantante che non ha bisogno, Paoletti, di grandi presentazioni, ha fatto un Festival di Sanremo eccetera, lo riconoscerete dalla voce. Il suo brano si intitola Da capo a 12, giusto? Ma lo sai che ogni notte mi addormento e penso a quanta vita. Ogni notte mi addormento e penso a quanta vita. Quanta vita c'è rimasta sullo stomaco. Sullo stomaco che fa un po' su e giù. Ma lo sai che poi non è che penso solo a questo. Penso pure che la pioggia prima o poi finirà. Ma per ora sembra ancora che stia qua. E ci annega, ci annega, ci annega. Quante volte hai detto basta? Quante volte hai detto stop, stop, stop? Che ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica. Ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica. Che fatica respirare mentre strillano. Gazzelle è tornato con un brano uscito ieri, questo. Eh sì, esatto, è torna con Indie, un album cinematografico l'ha definito, intenso, potente ed autoironico. Arriva praticamente a 2 anni di distanza dal precedente progetto discografico che si intitolava, se non sbaglio, Dentro. Complimenti a Gazzelle, era lui che è ritornato alla musica italiana, un graditissimo ritorno, tra l'altro uno dei cantautori di punta della nuova generazione. Quindi abbiamo detto tutto, vero regia? Regia. Espresso macchiato, por favore. Una sorpresa per lei, Paoletti. Por favore. Espresso macchiato a Corleone. Mi amore. Espresso macchiato, por favore. Por favore. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Chi è questo signore che canta? Ma è il prossimo candidato. Della? Non so ricordo. Del prossimo festival di Sanremo, sì, no, del prossimo festival dell'Eurovision Song Contest. Mi dica il nome sarà. Male, se no, Eddie Anselmi sarà. No, sì, sicuramente. Mi scuso con Eddie Anselmi. Dovremmo... È un brano che avevo sottovalutato. Sì. Avevo preso sotto gamba. Sì. Invece è talmente trash. Che sì. Potrebbe anche vincere l'Eurovision Contest. Assolutamente Song. Sì, è uno dei candidati appunto al festival, all'Euro Song Contest, sicuramente farà pronto da contraltare insomma Gabri i Ponte. Nostri a Gabri Ponte e ai nostri insomma precedenti a Lucio Corsi sicuramente. So che le visualizzazioni di questo pezzo sono altissime, anche il video insomma, così per fare l'ironia sul fatto appunto degli italiani e dei nostri, esatto, e dei nostri cappuccini macchiato. Ok, ma perché l'ha messo? Ci sarà? Io mi faccio la domanda e lei mi dia la risposta, però a questo punto no, non c'è. Brano, ultimo brano, ma annunci lei. Allora, per chiudere, Motivation, Christian Marchi con noi. Motivation, sexy motivation, dream motivation, passion motivation. I love that club sensation, chasing that elevation. You feel that motivation, You know my heart is racing, you're my kind of temptation. You feel that motivation. Motivation. Motivation. Motivation. Energy, motivation. Dance, motivation. Music, motivation. Ladies, motivation. Electrify, motivation. Sexy, motivation. Dream, motivation. Passion, motivation. The bass is pumping loud. We're moving in the crowd. You feel that motivation. Stavo ribaltando con lo sgabello. Brano. Non mi caschi che non qui. Ecco. Allora. Riprendo in mano la situazione. Christian Marchi con noi da oltre 30 anni, appunto fa musica, è un'icona della dance made in Italy, celebre per il suo stile insomma inconfondibile, e il suo massimo successo era Love Sex American Express, ricordo bene, e poi insomma tanti altri successi. Arriva questo nuovo pezzo per l'estate, insomma per così primavera estate, quindi con questo Motivation, un brano veramente travolgente che abbiamo deciso di suonare, è uscito proprio in questi giorni. Con questo salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Riccardo di Palermo, Giorgio di Reggio, Marzia, Elena, tutti quanti e tutte quante. Sì. Diamo appuntamento domenica prossima, stesso orario, stesse frequenze. Vi lasciamo tra poco meno di una mezz'oretta le corrispondenze di Dani Coraucci e il resto della programmazione di Radio Città Fujiko. Bye bye da Di Bologna del Volante. E da Franco Paoletti. Bye bye. Aggiungere qualcos'altro? No, direi ho detto. Allora, tutto. Bye bye. Electrify motivation, sexy motivation, dream motivation, passion.